Tempo di Sport di Gigi Garanzini. Buon pomeriggio, una puntata che mi verrebbe voglia di dedicare a Stefano Bartezzaghi e alla sua straordinaria capacità di giocare con le parole, magari ogni tanto anche con i numeri. Ma numeri perché domani, venerdì io non ci sono, mi piace ricordarlo oggi, è la data palindroma di quest'anno, è l'11-11-11. Comunque il suo fascino ce l'ha, poi che sia più o meno benaugurante, su questo gli esperti del ramo si dividono. Numeri, parole, perché domani è il giorno di Balotelli. Balotelli ha già giocato 5 partite in nazionale, ma insomma mi sembra, dall'attesa che anche Prandelli ha creato per questa vigilia, mi sembra che sia il giorno non del debutto ufficiale, ma insomma dell'investitura, anche per via delle disavventure destinate a durare nel tempo, che hanno che sono toccate a Cassano e a Peppino Rossi. Quindi il giorno di Balotelli, e quindi in questo caso giochiamo con le parole, perché dai palindromi passiamo a passiamo agli anagrammi, e Balotelli uguale, direi proprio Altobelli, no? Due bresciani di adozione, tra l'altro due centravanti. E quindi insomma un anagramma che sembra addirittura quasi una staffetta nel tempo, tra un attaccante che ha segnato mi pare 25 gol in maglia azzurra e che è il sesto marcatore di sempre nella storia nazionale, e uno che invece di gol non ha ancora segnati, ma su cui molto si investe e si punta, sperando sempre nella capoccia per il futuro. Allora andiamo con ordine. Intanto, per cominciare, la formazione che Prandelli ha annunciato per questa amichevole di domani sera in Polonia, e che prevede Abate fin dall'inizio e la coppia Balotelli-Pazzini in attacco. La formazione completa è Buffon in difesa, Abate, Ranocchia, Chiellini e Criscito, in mezzo al campo De Rossi, Pirlo, Marchisio e Montolivo, e la coppia per l'appunto Balotelli-Pazzini in attacco. Andiamo su questo, ripeto, che non è un debutto, ma che è un'investitura perlomeno di fiducia, no? Questa scommessa di fiducia che Prandelli ha fatto su Balotelli, l'ha vinta su Cassano il CT, questo va detto, tra molti scetticismi, l'aveva poi alla fine vinta, la stava vincendo su Cassano, vediamo se anche questa va a buon fine. Prandelli che parla di Balotelli. Nella considerazione giusta, ho avvertito molta più serenità, molta più consapevolezza che certi atteggiamenti vanno eliminati, e forse è proprio sulla strada della maturazione completa. Breve ma significativo. Ieri Balotelli ha parlato a lungo in conferenza stampa, che anche questo era un segno, no? di lancio, se vogliamo, nell'ambito della nazionale. Sentiamo una parte del suo intervento. Ma io non sono matto per niente. Poi posso fare cose un po' strane o cose divertenti, quello sì, ma matto proprio non so. Però se non le facessi, la gente si arrabbierebbe con me, perché direbbe che sarei noioso, quindi è niente. Si tende sempre più a parlare, sia qua che in Inghilterra, a parlare della mia vita privata piuttosto di quello che faccio sul campo. E capisco che è una cosa normale, però a me dà fastidio. Sì, io penso che possa arrivare al top. La fortuna, se sono un calciatore fortunato, si vedrà in poco tempo, perché la fortuna non dura per sempre. Se sono bravo vuol dire che andrò avanti. Se non mi sento pronto, ma io sono sempre stato pronto. Magari la gente pensa che non sia pronto, quello sono affari loro, ma io sono sempre pronto. Beh, non è certamente la modestia la qualità principale di Balotelli, ma non lo è mai stata. Comunque da domani lo si misurerà un pochino di più, no? anche in campo internazionale. E poi vedremo più tardi se il suo anagramma, no? Che ripeto lo ha preceduto nella storia della nazionale, insomma, ha voglia, ha coraggio, eccetera, di investire su di lui, su un'eredità sua o meno. Questo lo scopriamo nella seconda parte della trasmissione, dicevo di andare con ordine. Beh, insomma, stamattina proprio Prandelli, nella conferenza stampa di vigilia, ha toccato un argomento che già era emerso qualche tempo fa, ma che adesso potrebbe davvero tornare di attualità. Sentiamo. Siamo preoccupati, ma non è che posso dare delle ricette o dare dei consigli, assolutamente no, se non quello di essere comunque un cittadino che è a disposizione per qualsiasi tipo di soluzione, nel senso che ci sono sacrifici da fare, benissimo, facciamoli, senza commentare, insomma, è un'emergenza per tutti. La pagheremo la patrimoniale, qual è il problema, insomma? Sacrifici, insomma, d'altronde quando è il momento di sacrifici devi chiedere sacrifici alle persone che hanno la possibilità di contribuire, non alle persone che sono disperate. E alla fine comunque si torna sempre lì, in questi giorni, in questo periodo, per carità, il calcio è da sempre un'evasione, poi ogni tanto diventa un po' troppo importante perché gli diamo per l'appunto troppo peso, ma poi arrivano questi momenti a ricordare le priorità. Due nuovi allenatori in Serie A, e allora perché non sentire i loro buoni propositi di inizio avventura? Cominciamo da quello del Cagliari, e cioè dalla terza edizione di Ballardini a Cagliari. Siamo pieni, abbiamo voglia di lavorare, quindi siamo qua come al solito, sapendo che è una bella responsabilità, molto affascinante, quindi c'è dalla parte, c'è emozione e c'è anche molta determinazione nell'affrontare il lavoro, quindi emozionati e molto determinati, diciamo così, a svolgere bene il nostro mestiere, quindi questo è quanto. E poi c'è Delio Rossi, che nel frattempo ha cominciato il suo lavoro alla guida della Fiorentina. Io faccio e sono l'allenatore, io non vendo niente, non faccio rappresentante, quindi non posso fare promesse. L'unica promessa che posso fare, l'unica cosa che posso vendere è la mia professionalità. Accetto con grandissimo entusiasmo questa sfida. Sicuramente se arrivate a cambiare un allenatore durante il campionato significa che qualcosa non va benissimo. Io sono qui e ci metterò tutto l'entusiasmo possibile, ma di qui a fare delle promesse, ma non è nel mio stile. L'unica promessa che posso fare è che darò tutto a me stesso per portare in alto questi colori, questo è poco ma sicuro. Tra poco anche i vostri interventi in diretta, come sempre all'800 24 00 24. Qualche lettura, qualche commento sulla sentenza di Napoli, che indubbiamente molto rumore ha fatto. Un paio di notizie, queste magari fin da subito. La prima è che secondo Le Parisien, quotidiano, insomma lo dice la parola, quotidiano parigino, il Paris Saint-Germain avrebbe scelto, anzi ha scelto Ancelotti come nuovo allenatore al posto di Comboiré, ed è evidentemente Leonardo ad aver ispirato questa operazione, che non è affatto definita, perché Ancelotti è molto tentato da Parigi, però è altrettanto tentato dal continuare a vivere a Londra, dove ci sono un paio di squadre tipo Arsenal e Tottenham che un altro anno potrebbero dargli soddisfazione. L'altra è il deferimento di Zamperini da parte del procuratore federale Stefano Palazzi, che ha aperto un'inchiesta su una frase a contenuto antisemita pronunciata dal presidente del Palermo, commentando la presunta estorsione ai suoi danni commessa dal procuratore di Pastore, che è oggetto di un'inchiesta della procura di Palermo. Zamperini ha affermato: in America ci sono avvocati per la maggior parte di estrazione ebraica che cercano clienti fuori dai tribunali e dagli ospedali promettendo consulenze gratuite, e poi si rivelano invece con percentuali di provvigioni altissime. E mi pare che anche in questo caso torni in attualità insomma la possibilità che non siano soltanto gli ultra a essere oggetti di DASPO, ma che si possa eventualmente arrivare anche ai dirigenti e in particolare ai presidenti, come d'altra parte molto a sorpresa è avvenuto anche con la sentenza di Napoli. Complimenti per la battutona Balotelli Altobelli, scrive Vincenzo, una stronzata pazzesca, bontà sua, la ringrazio della elegante definizione. E guardi che non era però una battutona, era un anagramma, da Altobelli a Balotelli, anagramma, poi magari, non so, per radio è difficile fare un disegno, ma insomma potremmo provarci, una volta o l'altra. E chi sentiamo adesso? Potremmo sentire ancora Balotelli, in attesa dei vostri primi interventi, ancora Balotelli sul momento del calcio italiano e su una eventualità molto remota peraltro di un suo ritorno all'Inter. Per niente, quest'anno proprio sono troppo contento di essere in Inghilterra. Ha un futuro? Come faccio? Il campionato italiano è calato molto, il campionato inglese è veramente bello, Per adesso io posso guardare il mio futuro in Inghilterra, poi un giorno deciderò. Se un giorno ci fossero le basi per tornare all'Inter, io tornerei anche all'Inter, perché no? Non è un problema. Prima di tutto nessuno mi deve spaccare la macchina se vado in giro a Milano. I tifosi dovrebbero stare tranquilli e poi deve essere una squadra che punta in alto. Però per adesso sto bene in Inghilterra perché siamo forti, quindi non ho bisogno di cambiare. Ora lo Tito, scrive il Corriere della Sera, dovrà dimettersi da Lega e Consiglio federale. Si attendono in queste ore le dimissioni dal Consiglio della FIGC di Claudio Lotito, condannato dal Tribunale di Napoli a 1 anno e 3 mesi, ad imporre l'uscita di scena del Presidente della Lazio. E carica che a sua volta dovrà lasciare sono le carte federali, perché l'articolo 22 bis delle NOIF, norme organizzative interne federali, dice: restano sospesi dalla carica di dirigente di società o di associazione e dall'incarico di collaboratore nella gestione delle stesse coloro che vengano condannati, ancorché con sentenza non definitiva, per uno dei delitti previsti dalle leggi indicate al comma precedente. E il comma precedente indica per l'appunto casistiche che sono contemplate, che figurano nella sentenza di Napoli. Poi chiedo ancora un attimo di pazienza a un ascoltatore lucchese che è già in linea, perché stamane ci sono una serie di articoli di commento alla sentenza di Napoli di vario orientamento pubblicati dal Fatto Quotidiano. Allora, intanto mi interessa, credo che sia interessante sentire il parere di Roberto Beccantini, juventino storico, e che allora, all'epoca, nel 2006, fu praticamente linciato dai tifosi, diciamo dagli ultra juventini, sulla stampa, proprio per la posizione che assunse. Scrive adesso Beccantini: il mio pronostico era frode sportiva ma non associazione a delinquere. Cambia tanto, e comunque rispetto la colpevolezza di Luciano Moggi, visto che nei confronti della Biade juventina siamo già al terzo indizio: giustizia sportiva, rito abbreviato, Antonio Giraudo, primo grado di Napoli. Non credo nemmeno all'ennesimo complotto. Fino alle 8 di martedì sera il giudice Teresa Casoli rappresentava per il popolo juventino e dunque per mezza Italia il simbolo della giustizia vera, l'icona delle sentenze ponderate, l'incarnazione del processo corretto. Dopo la lettura del verdetto, per quello stesso popolo e per quella stessa metà è diventata una Palazzi con i tacchi. Palazzi nel senso appunto di procuratore federale, la maestra di due picciotte con le lupare puntate alla schiena di Moggi. In questi casi i cittadini in un paese normale attendono le motivazioni e poi cominciano a sparare o a spararsi. Da noi no, ci si spara subito. Roberto, provincia di Lucca, buongiorno. Pronto? Dica. Buongiorno a lei, dottor Granzini. Buongiorno. Volevo ricordare un carissimo amico che purtroppo è morto, che è Paolo Lazzotti, l'ex mezzala della Fiorentina, dell'Atalanta e di altre squadre. Tutto questo. Grazie Roberto. Luigi da Reggio Emilia, buongiorno. Buongiorno, senta, dottor Garanti, volevo chiedere una cosa. Lei a suo tempo disse che l'Inter doveva ridare in poche parole indietro lo scudetto. Adesso, dopo quello che è successo dal processo di Napoli, dalla prima sentenza, è sempre dell'idea che l'Inter dovrebbe ridare indietro lo scudetto del 2006? Nel modo più assoluto sì. Ok, la ringrazio mille. Grazie a lei. Così andiamo avanti magari con qualche altra lettura, con chi per esempio? Beh, insomma, anche Marco Travaglio mi pare che, dato che è uno che grosso modo di problemi legati alla giustizia se ne occupa e se ne intende, la conclusione del suo lungo articolo di oggi, che è una ricostruzione del sistema Moggi, ma insomma si conclude così: anziché lasciarsi lo scandalo alle spalle come aveva fatto suo cugino John Elkann, Andrea Agnelli, figlio di Umberto e amico di Moggi e Giraudo, ha ripreso a gridare al complotto e a rivendicare gli scudetti dello scandalo giustamente revocati. Ora, con la sentenza di Napoli e i messaggi di Moggi, a quel che si merita. Forse, anziché vellicare gli istinti peggiori della tifoseria peggiore, farebbe bene a guardare al futuro, a farsi spiegare lo stile Juventus da chi ancora sa che cos'è, come Boniperti, Trapattoni, Zoff e Platini. E magari a costruire stadi più sicuri. Mario ha chiamato dalla provincia di Latina, buongiorno. Buongiorno. Dica. Io sono napoletano e tifoso del Napoli. E volevo parlare di questo discorso proprio che riguarda Calciopoli, la differenza fra le due sentenze, diciamo, no? A mio parere era giusta la prima sentenza calcistica, perché dato lo spirito del regolamento calcistico c'era stato comunque un tentativo di deviazione dalla regolarità, per cui era giusto le varie penalizzazioni di tutte le squadre coinvolte e degli arbitri. Invece poi l'ultima era insoddisfacente, perché poi in effetti gli arbitri non hanno avuto niente, è state penalizzate alcune squadre, ma la sostanza del problema ha dato l'impressione di essere un'ingiustizia, peggiorata la situazione dal fatto che lo scudetto è stato poi assegnato all'Inter. Io posso dire che nel 1926 c'era stato un caso analogo. 27. Ma vuoi dire 27? Sì, 27. Al Torino fu revocato lo scudetto, ma non fu assegnato. Ed era quella la cosa giusta, e anche perché in quel caso la corruzione riguardava, se mi ricordo bene, anni precedenti, cioè il 2004, invece lo scudetto levato era nel 2006. Onestamente, in tanti anni di partite ho visto tante, diciamo, fumosità su certe decisioni arbitrali che riguardavano logicamente le grandi squadre, anche il Napoli di Maradona, riconosco, però quel 2006, perlomeno per la mia memoria, non mi era parso che la Juventus fosse stata tanto favorita. Questo è il mio parere, la voglio sentire. Sì, a distanza di 5-6 anni non è facilissimo ricostruire. Il presupposto dello scudetto 2006 è che per via revocato alla Juventus era che non avrebbe dovuto partecipare a quel campionato sulla base del fatto che era irregolare lo scudetto 2005. Ripeto, se non ricordo male, ma credo proprio che fosse questo, al di là poi di altri aspetti, di altri argomenti, di altre motivazioni e comunque di un sistema che funzionava e come, no? E che era strutturato esattamente come l'anno precedente per quanto riguarda quella che anche i giudici penali hanno riconosciuto hanno scritto essere una cupola vera e propria. Poi di anomalie ce ne sono, di stranezze di ogni genere, per esempio questa severità del giudice penale, perché in genere il passato dice che c'era sempre stata molta più severità da parte della giustizia sportiva e meno severità da parte invece della giustizia, poi chiamiamola ordinaria. C'è una curiosità ancora, se sì, c'è un minuto di tempo, che è questa, sempre pubblicata dalla 7, stavolta a firma dalla 7, sempre pubblicato dal Fatto Quotidiano, a firma Andrea Scanzi, che racconta la strana storia di una docufiction bloccata e sparita un paio d'anni fa. Dunque, scrive Andrea Scanzi, la docufiction che tutto predisse, di fatto non l'ha vista quasi nessuno, si chiamava Operazione Offside. Autori Giovanni Filippetti e Umberto Nigri, è andato in onda il 15 dicembre 2009 in prima serata e senza interruzioni sulla 7, che investì 160.000 euro e poi ha abbandonato la docufiction. Una sul clan Casalesi è stata accantonata. Racconta la storia delle indagini di Calciopoli condotte dalle procure di Napoli e dal nucleo operativo dei Carabinieri di Roma. Daniele Lotti è un procuratore, Mattia Sbragia è Luciano Moggi. Si mette in scena con parti di audio originale l'interrogatorio in cui Moggi scoppia a piangere: mi state trattando come se fossi provenzano. Lucky Luciano poteva contare su ministri, Pisano, Siniscalco, generali di guardia di finanza e agenti di polizia che scortavano a Capello dal dentista. Un'opera impietosa, premiata come miglior docufiction italiana a Roma Fiction Festival 2010, ma scomparsa. Per l'unica messa in onda, la 7 attese la sentenza di rito abbreviato nei confronti di Antonio Giraudo, condannato il 14 dicembre 2009 per associazione a delinquere, e la fiction fu poi bilanciata da un dibattito con Giampiero Mughini, Italo Cucci, Oliviero Bea ed Enzo Bucchioni. Al telefono intervenne anche Diego Della Valle, che ha un ruolo chiave. E poi questo articolo continua. Interessante, non dico inquietante, ma interessante sicuro. Sebastiano Greco scrive una mail chiedendo dove trovare l'articolo sulla fiction di Calciopoli che ho appena letto in parte, peraltro sul Fatto Quotidiano in edicola. In edicola oggi, Elton con l'H ha chiamato da Brescia, buongiorno. Sì, buongiorno signor Garantini. Dica. Senza l'H, ma va bene. Senza l'H, vede, me l'ha scritto con l'H, ma gliel'ho chiesto apposta perché ero un po' incerto su quell'H. Dica. Intanto faccio i complimenti al suo programma e a tutto Radio 24 perché avete deviato un po' il mio il mio sentire della radio, insomma, ecco. Grazie. Io non voglio fare una domanda, io voglio solo dire complimenti a Prandelli, e ce ne fossero anche degli altri come lui, perché in questo momento non solo all'Italia ma in tutto il mondo servirebbero delle persone così bilanciate. Bresciano a sua volta Prandelli, poi Bresciano Arioso, perché mi pare sia di Orzi Nuovi, ma insomma oggi è una beneficiata bresciana, perché vi dicevo di questo strepitoso anagramma che si scrive Balotelli ma si può tranquillamente leggere Altobelli. Stiamo parlando di due bresciani d'adozione, perché insomma uno d'adozione la storia si sa, l'altro era un bresciano d'adozione perché arrivava da Sonnino e quindi dalla ciociaria laziale. Tutti e due hanno fatto i centravanti, tutti e due appunto sono bresciani d'adozione, e quindi io saluto con grande piacere Spilo Altobelli. Buongiorno. Ciao. Ciao Gigi, buon pomeriggio a tutti i tuoi radioascoltatori. Senti, Spillo Altobelli, così soprannominato, mi risulta, da un allora giovane cronista di Brescia Oggi, che oggi è da tanti anni vice direttore al Sole 24 Ore e che nel frattempo è stato per anni direttore di Radio 24, il suo nome è Elia Zamboni, che vide questa fotografia quasi a tutta pagina, che nei primi anni 70 usava solo fino a un certo punto, no? Pubblicate così quasi a gigantografia, tu tenevi praticamente l'intera pagina con pochissima carne addosso e una massa di capelli ricci, spaventosi in testa, che era la capocchia esatta dello Spillo, per cui da lì in avanti sei stato Spillo. È quasi così. È quasi così. È quasi così. La realtà e la verità pura è una. Io giocavo nel Latina, nei ragazzi del Latina. Sì. C'era un maestro elementare che veniva tutti i giorni a vedere gli allenamenti. Lui mi ha visto alto e magro e mi ha cominciato a chiamare Spillo. Ah, vedi. Da quel momento lì questo soprannome mi ha accompagnato tutta la vita, ancora adesso tutti mi chiamano. Ti chiamano. Questa è la verità. Anche perché se c'è un ex atleta che non ha messo su un etto, o se li ha messo, insomma, veramente irrilevante, sei tu, questo. Sì, ma infatti guarda, non metto gli etti, metto i chili interi adesso. Vabbè, un po' alla volta, allora è un po' che non ci vediamo, insomma l'ultima volta che ti ho incrociato. No, abbastanza bene. Avevi ancora un fisico invidiabile, dunque. Allora, domani Balotelli ha già giocato 5 partite in nazionale, insomma, ma mai da protagonista, mai con una responsabilità precisa sulle spalle. Adesso c'è la grossa, perché un'altra analogia possibile è questa. Io mi ricordo che tu in nazionale arrivasti, o comunque cominciaste ad affermarti, quando c'era un problema serio per Rossi, Paolo Rossi e per Giordano. Era un problema di natura diversa. Adesso il problema di Rossi e Cassano invece di un brutto stop di salute per infortuni, e quindi più o meno adesso mi pare che tocchi a Balotelli come a te tocco allora. Sì, diciamo allora che Balotelli è uno di quei giocatori straordinari, no? Quando si sta affacciando alla nazionale è già un po', l'abbiamo visto nell'Under 21, sì. Lo abbiamo visto. E per quanto riguarda la nazionale maggiore si deve ancora fermare, ha tutte le qualità per farlo, non c'è stato mai tempo, però io penso che in questo momento dove ha chiamato a metterci del suo, perché è un momento delicato dove abbiamo perso Rossi e abbiamo perso Cassano, quindi è la sua ora. Io penso che lui la sfrutterà al massimo, perché stiamo parlando di un giocatore che ha delle qualità innate, naturale, e quindi stiamo parlando di un grande fuoriclasse. Potenziale, no, di cui ogni tanto si vede, si è già visto qualcosa di concreto, per carità, ma in maniera sempre un po' altalenante e sempre con questi comportamenti che ogni tanto stupiscono. Lui ha detto, insomma, è una grande verità quella lì, che allora nell'Inter ha cominciato a giocare, ha giocato poco, però quando giocava bene. Sì. Nel Chelsea sta proseguendo con Mancini, che è il suo caro allenatore. Certo, nel City, sì. È quasi un figlio. Sì. Dove anche lì, gioca, non gioca, però quando gioca fa la differenza, no? Sì. E quindi in nazionale anche ancora non trova la sua collocazione. Però ecco, diciamo che lui in questo momento, stiamo parlando di un ragazzo di 20 anni. Sì, sì, certo, certo. Quindi certo, c'ha una vita ancora davanti. Forse magari gli manca ancora qualcosina per diventare magari titolare fisso da tutte le parti, però essendo, si sta lavorando su un diamante grezzo. Grezzo, questa questa... che va fatto crescere, certo, piano questo ragazzo. No, no, ma diamante grezzo è un'immagine magnifica che hai usato, Spillo. No, volevo dire che è vero che dopo questo ragazzo qualche volta esce fuori dalle righe, ma stiamo parlando di un fuoriclasse, e se uno è un fuoriclasse non ragiona come tutte le persone normali. Anche questa. Ha fantasia. Se uno ha fantasia da vendere nel campo, evidentemente ce l'ha anche fuori dal campo, perché è impossibile che uno sia un fantasista in campo e poi fuori una persona... Sì, un impiegato, certo. Cioè, un impiegato. No, allora, io adesso facendo un po' di retromarcia, andando a vedere cavolata che ha fatto Balotelli, ma non sono cose gravi, sono cose da ragazzi che, fatte da lui, vengono riportate in prima pagina e hanno un eco maggiore. Sì. Però diciamo che non ha mai fatto cose che magari potessero far pensare che il suo futuro è in difficoltà, incerto, perché no. Io tu ci scommetti? Balotelli così. Ogni tanto voglio vedere che fa una mattata. Possiamo dire cazzata? Sì, certo che possiamo dire, perché così ci capiamo prima, insomma. Voglio vedere Balotelli che ogni tanto fa qualche cazzata, perché piace a tutti. Ecco, io che piace a tutti ho qualche dubbietto. Però mi colpisce molto la tua teoria, e cioè che se un giocatore in campo deve essere fuori catalogo, no? deve essere uno che inventa, che chissà cosa ti combina, eccetera, è impossibile che almeno entro certi limiti non sia altrettanto fuori dal campo. Ma lui è una persona naturale così, sia quando gioca e sia quando è fuori, per lui è tutto normale. Allora, se lui passa a Brescia davanti a un bar e ha voglia di prendere il caffè, si ferma e va a bere il caffè. Sì. Un giorno è passato davanti alle carceri e si è fermato, certo, a vedere le carceri. Cosa c'è di strano e di male? Sai cosa c'è di strano e di male? Chi ha telefonato ai giornali per dirgli questa cosa. Sì. Perché evidentemente voleva mettere in mostra lui, non Balotelli che va lì. Sì, sì, sì, anche questa è una chiave di lettura, Spillo. Senti, facciamo così, io ti chiedo tu evidentemente sei disposto mi pare di capire, a investire, no, su Balotelli, a scommettere sul... avevo già investito, perché lo conoscevo quando giocavano i ragazzi qui, delle Rondinelle, poi a Lumezzane, so tutta la storia, quando doveva andare in Svizzera, i fratelli, quando l'ha preso lì, super aggiornato. Allora, quello che ti domando è questo, la tua carriera in nazionale consiste in, se la vogliamo sintetizzare, in 61 partite, in 25 gol, che vuol dire il sesto cannoniere di sempre insieme a Baloncieri e anche a Pippo Inzaghi. Tu pensi che Balotelli possa arrivare a giocare 61 partite e a segnare 25 gol in maglia azzurra, o che possa andare oltre, o che invece si fermerà prima? Ma io ne reclamo anche 3 di gol, perché prima dei mondiali abbiamo fatto un amichevole col Guadalajara in Messico, c'era arbitri ufficiali tutti, abbiamo vinto 3-0 e ho fatto 3 gol che non me li hanno assegnati. Quindi, vabbè, 25 più 3 i gol di Spillo. 25 più 3. Va bene. Io penso che sinceramente Balotelli ha davanti tutta una carriera e che possa superare sia le 61 partite e sia anche i 25 o 28 gol, perché lui è un potenziale ancora che non ha esploso. Tutto da esplorare, da aspettare. È tutto, bisogna lavorarci sopra per cercare di farsi dare sempre il massimo. Bisogna capirlo e conoscerlo, perché per ottenere il massimo da un giocatore bisogna conoscerlo. Ecco, Mancini lo conosce. Certo. Vabbè, detto dall'anagramma, e cioè da Altobelli, mi pare che Balotelli non possa che convincersi di questo e essertene grato. Grazie, Spillo. Grazie a te, Gigi, buona continuazione. Chiudiamo questo collegamento, ripeto, con l'anagramma di Balotelli, che si legge in questo caso Altobelli. Vedo che molti vogliono intervenire, vedo un paio di messaggi. Per esempio Alfredo scrive da Genova, anzi prima Stefano scrive da Udine: non sono d'accordo con Altobelli sul ragionamento genio sregolatezza in campo e fuori, allora ci dimentichiamo di Rivera. Alfredo da Genova scrive la stessa cosa: a me sembra che Rivera fosse un fuoriclasse in campo e un uomo fuori. Lo so, erano anche altri tempi, insomma, in cui magari anche le famiglie, magari anche il modo in cui si cresceva, avevano dei suggerivano, ispiravano, obbligavano a comportamenti diversi. Oggi si può anche essere un po' matti e giocare a pallone. Fidiamoci di Balotelli e il fatto che ha detto non sono poi così matto, io ho molte riserve in materia. Fidiamoci della parola dell'anagramma. Visto che con Altobelli è stato un discreto amarcordo, allora magari posticipiamo di un paio di minuti quello di Nicola Filippone e sentiamo Paolo da Roma. Buongiorno. Salve, buongiorno. Dica. Dottor Garanzini, no, soltanto una piccola riflessione sul fatto che Altobelli dice che praticamente un campione di uno sport, perché è bravo a fare delle stupidaggini e si accetta tutto. Io sinceramente sono piuttosto perplesso da questo atteggiamento. Anzi, sono personaggi pubblici, guadagnano perché sono personaggi pubblici. E dovrebbero avere un comportamento che sotto un certo punto di vista in qualche caso dovrebbe essere l'esempio. Non faccio nomi né dire, ma credo che ne vengano parecchi. Sì, ma posso fare dei nomi. Del Piero è un campione, non credo che faccia delle stupidaggini nel suo piccolo, io sono romano, ma dico Toppia, no, ma sì, e poi a maggior ragione adesso, perché Del Piero ha compiuto ieri mi pare 37 anni, Totti ne ha quasi altrettanti, qualche ascoltatore mi ha scritto Baggio eccetera, insomma diciamo che Altobelli ha trovato questa chiave, no, per difendere il suo anagramma e conterraneo Balotelli, come dire, con una tesi un po' paradossale, un po' tanto paradossale se vogliamo, però non ha detto che è indispensabile che uno che è in campo a fantasia debba essere matto fuori, non ha detto proprio così, ha detto che insomma va capito che se uno in campo è così estroso lo sia anche fuori, lo si può vedere anche nel senso negativo dell'accezione, e cioè se un giocatore come Balotelli spesso si comporta male in campo, perché ogni tanto, ma non ogni tanto mica tanto, Balotelli si comporta male in campo con qualche voglia di brutti falli, proteste, simulazioni eccetera eccetera. Allora, per analogia, ecco che si comporta male abbastanza anche fuori. Insomma, facciamo così, Altobelli ha fatto, secondo me giustamente, l'avvocato difensore di Balotelli, però io ricordo Altobelli in carriera e non ricordo di avergli mai visto fare né in campo, né fuori. I fuori non lo so, ma in campo sicuro non gli ho mai visto fare nessuna delle cose che a 21 anni e compiuti da poco ha già collezionato nel frattempo. Il suo anagramma Balotelli. Alvise, provincia di Venezia, buongiorno. Buongiorno Garanzini. Dica. Complimenti, eccetera, eccetera. Balotelli ormai ne stiamo parlando. Sono d'accordo con quello che hanno detto quelli di prima e con quello che ha detto lei adesso. Sulla Gazzetta c'è Garlando che difende abbastanza questo ragazzo di 21 anni, 22 quanti cavolo ne ha, che poveraccio, qualunque cosa faccia lo mettono in croce e fa anche cose buone, va a visitare i bambini, eccetera, eccetera. Forse il fatto di essere un po' estroverso in senso negativo lo limita anche in campo. Visto che tanti hanno già parlato, volevo solo far presente su questo argomento che sulla Gazzetta di oggi ho visto un bel intervento di Josefa Idem, che secondo me è un mito assoluto. Certo. Che dice che Ibrahimovic, che esce con un giornale in cui fa il figo dicendo tutte le stupidaggini che ha fatto, forse bisognerebbe andarci piano. Ah, sono completamente d'accordo con lei e prima ancora con Josefa Idem, che tanto è un personaggio dello sport di cui si può parlare solo stando in piedi, secondo me, non se ne parla da seduti, per mille e una ragione, e poi perché ha detto e scritto delle cose non solo ampiamente condivisibili, ma perfette. Dopodiché è chiaro che, dato che insomma anche anche la cassa alle sue esigenze, cosa fa la Gazzetta? Ripubblica altre due o quattro pagine di testimonianze, di racconti di Ibrahimovic e poi, per diciamo mondarsi, no, pubblica questo fondino di Josefa Idem. Ci sono altri modi, volendo, no? Cioè, non si dà spazio alle prodezze del profeta Ibrahimovic e a quel punto si può anche evitare il fondo di Josefa Idem. Diciamo che una cosa perlomeno ha suggerito l'altra, e già questo è positivo. Adesso sì che è arrivato il momento della Marcord, e quindi il 10 novembre ricostruito da Nicola Filippone. Sembra ieri. 10 novembre 1963. La nazionale di Edmondo Fabbri esce dagli europei ad opera dell'Unione Sovietica. A Roma gli azzurri, tra cui i debuttanti Burnic e Domenghini, avrebbero dovuto compiere un'impresa molto complicata, ribaltare il 2-0 subito a Mosca. Ma trovano sulla loro strada un portiere del calibro di Lev Yashin, protagonista di più interventi decisivi. Il tentativo di impresa si complica ulteriormente quando Gusarov al 32esimo batte Sarti. Nel finale l'Italia trova almeno il gol del pareggio con Rivera, a cui resterà la soddisfazione di aver segnato a colui che, di lì a qualche giorno, unico portiere nella storia, sarebbe stato insignito del pallone d'oro, precedendo lo stesso Rivera, il quale otterrà il prestigioso riconoscimento 6 anni dopo. Dopodiché mi informa Nicola Filippone che è anche oggi, 10 novembre, l'anniversario, il 23esimo anniversario della ripetizione di Stella Rossa Milan al Maracanà di Belgrado, rinviata il giorno prima per nebbia. Insomma, in poche parole, la volta che il Milan mise i rigori e che nacque l'epopea del Milan di Arrigo Sacchi. Ai tempi di Rivera, scrive un ascoltatore, c'era anche Best, non proprio Santarellino. Qualcun altro invece ricorda la correttezza e la maturità di Baggio e del Piero, ma insomma questo è già uscito prima, è già emerso dall'intervento di un ascoltatore. Io vedo oggi un campione assoluto che è la mitezza e direi persino quasi la banalità dei comportamenti fatti a persona che Leo Messi, per esempio. Non c'è, evidentemente non c'è una regola, ripeto, Balotelli ha voluto fare una tesi, insomma, sviluppare una tesi un po' paradossale. 30 secondi per Igor, che ha chiamato la Lucca. Buongiorno. Sì, salve, buongiorno. Dica. Io volevo semplicemente, sì, come sulla scorta di alcuni altri ascoltatori, precisare che ai tempi di Rivera c'era Zigoni, c'era Vendrame, oltre appunto Best, c'era ancora prima Gigi Meroni, che insomma, cioè, il genio è sempre stato, non necessariamente, però spesso accompagnato da sregolatezza. Sì. E il fatto che Balotelli vive una situazione un po' particolare dovuta al fatto di essere di colore, di essere italiano, di essere un personaggio, e spesso su questa concatenazione di status la stampa ci va a nozze. Oggi è in passato, mi spiace doverla interrompere, ma dobbiamo essere molto rigorosi nella chiusura. Comunque il suo era davvero un intervento apprezzabile, la ringrazio. Fabio Cantadori in regia, che è appunto la persona che mi facendo richiudere, Franco Piantanide in redazione. Buon pomeriggio a tutti.